Giovani talenti. Giovani talenti di Sergio Nava. Ho studiato al Politecnico di Milano ingegneria fisica. Quando poi alla fine dei 5 anni della laurea specialistica ho voluto fare un'esperienza all'estero, sono venuto qua. La differenza è nella possibilità di lavorare con dei macchinari e con delle strutture che là a Milano non c'erano. La disponibilità di risorse che c'era in quel momento al Dipartimento era molto limitata per i tipi di ricerca che interessano a me, e quindi ho cercato qualcosa. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Oggi apriamo il nostro programma con una nuova serie di cartoline dall'estero che ci invia il nostro ascoltatore Alberto Scarsi. Negli ultimi mesi Alberto ha intrapreso un personale viaggio per l'Europa per incontrare i nuovi espatriati italiani. Ha poi raccolto le sue conversazioni in un canale YouTube, Storie di Italiani all'estero, The Italian Job, che vi invitiamo fin d'ora a visitare. Avete appena ascoltato la storia di un giovane ingegnere emigrato da Lecco a Copenaghen. Anche lui, per pura coincidenza, si chiama Alberto. La frase della settimana è invece copyright del violinista Uto Ughi. In Italia abbiamo talenti straordinari abbandonati a se stessi che andrebbero sostenuti e promossi. Vorrei che un giorno, suonando all'estero, mi dicessero che grande tradizione culturale avete e non più che avete avuto. E forse è il caso di coltivarlo, questo talento. L'OCSE ha recentemente denunciato come l'Italia risulti ultima per competenze alfabetiche e penultima in matematica su 24 paesi. Anni di svalutazione del capitale umano qualificato hanno prodotto un paese a forte rischio declino su scala globale. Afferma Stefano Scarpetta, direttore del Dipartimento Occupazione OCSE, non solo le competenze medie degli adulti italiani sono tra le più basse, ma l'Italia utilizza relativamente poco e male le competenze disponibili. Una parte rilevante dei suoi talenti è disoccupata, specialmente tra i giovani, oppure è inattiva. E allora, per consolarci, andiamo in Svizzera. Purtroppo al momento non ci sono opportunità, anche volendo rientrare. Spero di vedere il mio paese riemergere e cambiare, ma al momento senza di me. Clizia Capecchi, 26 anni e marketing coordinator a Zurigo. Della sua storia parleremo tra pochi minuti. Ora spazio al notiziario. €1.800 contro i 1.300 di chi resta in Italia. È di ben €500 la differenza, o lo spread in termini di reddito, tra i laureati che a 4 anni dal titolo lavorano all'estero rispetto ai colleghi rimasti nella penisola. Lo denuncia la ricerca di Carlo Barone, docente all'Università di Trento. La forbice si allarga fino a €700 per i dottori nel settore umanistico. E alle opportunità all'estero dedichiamo il notiziario. Willkommen in Deutschland, benvenuti in Germania. Berlino va a caccia di talenti nel sud Europa. L'agenzia tedesca per il lavoro ha creato un sito ad hoc, jobbörse.arbeitsagentur.de, con migliaia di posti disponibili. Ricercati soprattutto ingegneri, specialisti in information technology, dottori e infermieri, tecnici. Rivolto ai giovani disoccupati del continente, il sito thejobofmylife.de con tutte le informazioni utili per lavorare in Germania. A maggio l'associazione tedesca degli ingegneri lanciava l'allarme: servono 70.000 ingegneri. E la Germania, per mantenere la sua forza economica, ha bisogno di immigrazione qualificata. Parola della cancelliera Angela Merkel, che considera gli immigrati una chance e un arricchimento. Un editoriale della giornale Die Welt fornisce le cifre. Servono 400.000 immigrati per garantire solidità all'economia. La Germania non attrae però solo talenti dall'estero, punta anche a riportare i propri in patria. La German Scholar Organization ha offerto un premio di €100.000 per i giovani altamente qualificati trasferitisi in Svizzera, Nord America, Scandinavia e Cina per incentivarli a tornare. Il tutto mentre Berlino punta a divenire la capitale europea delle start-up. L'hub designato è l'ex aeroporto di Tempelhof. 100 visti speciali l'anno per permettere ai giovani più talentuosi del mondo di far fiorire a Londra la propria creatività nei settori high-tech, della moda e del design. L'idea è di Boris Johnson, sindaco della capitale britannica. Anche il Canada si propone quale alternativa alla Silicon Valley. Ottawa propone il permesso di soggiorno permanente a chiunque parli inglese o francese, abbia completato un anno di college e sia in grado di garantire $200.000 attraverso un fondo di venture capital o $75.000 se singolo investitore. Il programma si chiama Startup Visa Canada. E secondo il Ministero degli Esteri canadese servono urgentemente 2.000 postdoc che intraprendano una carriera scientifica nel paese, richiesti ingegneri, biologi, astrofisici e medici specializzati. L'Australia è pronta a scommettere sui cervelli italiani, a dirlo l'ambasciatore in Italia David Ricci, che ha dichiarato: mi auguro di vedere più studenti italiani avvalersi dell'eccellenza accademica delle università australiane. 6.500 i connazionali che studiano nella terra dei canguri, tutte le info su studyinaustralia.gov.au. Studenti, ricercatori e lavoratori della conoscenza sono queste le tipologie di immigrati di cui l'Olanda ha bisogno, così afferma il report Farcela nei Paesi Bassi realizzato dal Social Economic Council. Paesi che riattraggono i propri talenti emigrati. Uno dei migliori esempi in Asia è la Malesia, che ha tracciato la strada con il Returning Export Program. Offre ai giovani qualificati che intendono rientrare incentivi fiscali, possesso esentasse di 2 auto made in Malesia, una corsia preferenziale nelle pratiche di residenza, ingresso prioritario alle migliori scuole per i figli. La tentazione della fuga oltre confine in tempi di crisi contagia più in generale i giovani europei. Secondo Graduate Barometer Europe, ricerca effettuata sui giovani in 24 stati, ben il 30% si dice pronto ad andare all'estero, mete preferite Inghilterra e Germania. Espatriare per lavoro in Europa sarà sempre più facile. Entro 2 anni la carta per esercitare la professione regolamentata sarà realtà. La plenaria dell'Europarlamento ha approvato la direttiva che si applicherà alle 7 professioni, essenzialmente mediche, già regolamentate nei 28 stati membri. Chi vuole trasferirsi a esercitare in un altro paese potrà compiere tutte le procedure di riconoscimento e abilitazione a casa propria. Ci sono anche buone notizie. Assumere nelle nostre università i cervelli che dall'estero rientrano in Italia per far sì che il loro ritorno sia effettivo e stabile. E quanto permetterà il cofinanziamento previsto dal Ministero dell'Università nell'ambito del programma Rita Levi-Montalcini. L'Italia ha bisogno di giovani professori selezionati con bandi nazionali in modo rigoroso, ha rilevato il ministro Maria Chiara Carrozza. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci riporta in Svizzera, paese dove la meritocrazia funziona al di là degli stereotipi. Sarà anche per questo che ne beneficia enormemente la qualità della vita. Tra valli, laghi e montagne, immediatamente al di là del nostro confine, scopriamo come l'investimento su giovani e capitale umano possa rappresentare un valore. Nome: Clizia. Cognome: Capecchi. Età: 26. Città di origine: Firenze. Studi: laureata in marketing e internazionalizzazione. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2010. Per andare dove? A Zurigo. Perché? Per una buona offerta di lavoro. Quale lavoro svolgi attualmente? Sono marketing specialist. Dove? Presso Express Pantone Europe GmbH. Tornerai? Per ora resto, ma a Zurigo. Viaggio dell'italo-svizzero Robert Miles ci porta fino a Zurigo. Al momento non penso di tornare in Italia, perlomeno per i prossimi 5-10 anni. Se lo vorrei, certo che sì, ma non vedo opportunità, meritocrazia, flessibilità. Scrivi a giovanitalenti@radio24.it. Clizia, è giunto il momento per voi espatriati di porre condizioni precise al vostro paese. Provo a riassumere in modo un po' crudele: o cambi o affondi, ma senza di noi? Diciamo di sì, anche perché purtroppo al momento non ci sono opportunità, anche volendo rientrare. Spero di vedere il mio paese riemergere e cambiare, ma al momento senza di me. La tua è una storia abbastanza normale, almeno nella fase italiana. Comincia con l'iscrizione alla laurea triennale in marketing e internazionalizzazione a Firenze. Cosa ti porta su quella strada? Dopo il liceo linguistico e comunque una buona passione per la matematica, il percorso in marketing alla facoltà di economia mi sembra offrire il giusto mix, con l'idea di poter usare le lingue in un contesto più pratico, magari anche in vista di un lavoro che mi faccia viaggiare. C'è però un piccolo incidente che segna il tuo percorso accademico. Avviene quando svolgi il tirocinio obbligatorio presso un'azienda di Prato, per poi rimanervi come apprendista. E quale amara sorpresa ti ritrovi in sede di discussione della tesi? Mi presento alla discussione con 93 punti, puntando a conquistare i 7 che mi dividono dal 100, grazie alla laurea in corso, una buona presentazione della tesi e al tirocinio, appunto. Sono proprio questi 2 punti per il tirocinio che non mi vengono assegnati. Nessuno in segreteria si era ricordato, fra virgolette, di dirmi che l'attività lavorativa riconosciuta come tirocinio non portava alcun punteggio. Quando la burocrazia taglia le gambe, eh? Sì, questo piccolo particolare l'ho scoperto soltanto al momento della proclamazione con il mio professore, che mi disse: Capecchi, complimenti, ma con amarezza. Proprio 2 punti persi per questo cavillo burocratico ti precludono l'accesso diretto alla laurea specialistica. Allora invertiamo le parti per una volta. Quale voto dai tu all'università italiana? Le do comunque la sufficienza, perché nel mio percorso ho incontrato professori motivati e preparati. Quello che manca, secondo me, sono le strutture adeguate, una burocrazia più snella, appunto, e soliti programmi per gli scambi e l'Erasmus. Ma se tornassi indietro, studieresti in Italia o all'estero? Sinceramente penso che sceglierei nuovamente l'Italia, ma farei l'Erasmus, anzi, lo metterei quasi obbligatorio nel percorso. Io aggiungo di più, io lo farei obbligatorio per tutti. La tua è anche una storia di coraggio: con orgoglio decidi di rinunciare alla specialistica a causa dell'inevitabile iter burocratico dei 2 esami riparatori che ti avrebbero fatto perdere 1 anno di studi, e continui a lavorare part-time, fino a quando in azienda non ti suggeriscono di candidarti per una posizione junior alla sede europea. Allora, più in particolare, dove per fare cosa? A Zurigo, appunto, per una posizione da Junior Marketing Coordinator, una sorta di braccio destro del marketing manager per coordinare l'attività in Europa, dalle fiere al lancio prodotti e tutto quello che c'è nel mezzo. Elisa, ci racconti com'è stato il processo di selezione all'estero? L'invio del mio curriculum in inglese, ma si evolve poi con due colloqui telefonici con il direttore marketing in America e un terzo step direttamente a Zurigo. Qui resto ben due giorni in cui, oltre a un'ora di colloquio con le due marketing manager europee e le risorse umane, ho poi due compiti da svolgere, una sorta di test. Due giorni, un computer e le relative idee da presentare a fine delle giornate alle manager. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi ma da qua se ne vanno. Passa una settimana e arriva la comunicazione presa ed ero la più giovane degli oltre 10 candidati. Allora, Clizia, stupiscici, con quali motivazioni, normali all'estero ma ormai dimenticate da troppi anni in Italia, ti spiegarono perché intendevano puntare proprio su di te? La risposta fu breve: hai buone idee e sei giovane, la marketing manager può formarti come meglio per le esigenze del team. Ma una risposta del genere in Italia ti sarebbe mai stata data? Penso proprio di no, anzi, non ho ricevuto risposte. Primo novembre 2010, la data che cambia per sempre la tua vita, arrivi a Zurigo, quale città trovi ad accoglierti? Una città fredda, sicura e al tempo stesso ben organizzata. Ancora una volta, lo scandalo non è tanto nel processo di uscita dall'Italia, questo lo ripetiamo spesso, ma nella sostanziale impossibilità di tornarci una volta chiusa la porta. Non ci stancheremo mai di fare la conta. Quanti curricula hai inviato in patria dopo un anno di lavoro in Svizzera e quante risposte hai ricevuto? Dopo il centesimo ho smesso di fare il conto, ma forse sono arrivata più vicina a 200 che altro. La conta delle risposte invece è abbastanza facile. Non ho ricordanza di una risposta che tale si possa considerare. Al più un grazie per averci contattato, le faremo sapere. Non le faremo mai sapere, insomma. Sì, e appunto. Interessante la spiegazione che però dà la manager risorse umane della tua azienda di fronte ai comprensibili punti interrogativi che le poni. Ed è una spiegazione che dimostra quanto l'Italia sia un paese per vecchi. Come spiega lei le zero risposte ai tuoi curricula? Spiega che nella mia posizione sotto i 30 anni non ci sono molte persone e con questa frase io le rispondo che in fondo non è colpa mia se ho iniziato a lavorare l'ultimo anno d'università, ma ad oggi 26 anni e 5 anni di esperienza suonano come una barzelletta. E mentre l'Italia resta sorda ai tuoi messaggi, quanto ti fa crescere invece professionalmente parlando la Svizzera? Posso riassumere dicendo che ho fatto tre scalini dal mio arrivo. Dopo 18 mesi mi hanno tolto lo junior dal titolo e dopo un altro anno sono passata a marketing specialist e al momento con focus sui territori del Medio Oriente e Russia. Tu però non ti abbatti, nella ricerca di lavoro intendo, segui il consiglio del professore della tesi, studi a Londra per un certificato in digital marketing, sulla cui spinta riparte alla ricerca di un nuovo lavoro, questa volta all'estero. Ed è tutta un'altra storia. Quanto spesso e soprattutto ti rispondono in Svizzera? Che un 80% ma anche un 90% delle aziende e dei recruiter rispondono, più che altro con un tono personale, non mai la solita mail automatica. C'è la possibilità di avere un dialogo e anche di fronte a un rifiuto non si tirano indietro se si chiede il perché del rifiuto, quindi si sa sempre da dove ripartire e qual è il motivo, ci si sente considerati. Anche per te la nostra domanda di rito, Clizia, come vedi l'Italia dall'estero, cosa c'è che non va e una proposta concreta da cui ripartire? Penso innanzitutto si dovrebbe partire dalle lingue, ovvero tutti i ragazzi uscendo dalla maturità dovrebbero essere in grado di sostenere una conversazione, di andare a giro e di lavorare con l'inglese. Inoltre penso anche che l'amministrazione dovrebbe avere persone all'interno che hanno avuto un percorso anche all'estero per poter riportare in Italia quello che all'estero sembra funzionare così facilmente. Giovani talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Clizia Capecchi, 26enne marketing coordinator a Zurigo. Clizia vi approda dopo una laurea triennale in marketing e internazionalizzazione a Firenze. L'accesso alla specialistica sfuma invece per il classico intoppo burocratico all'italiana. Lei non si rassegna e inizia a lavorare come apprendista, poi coglie l'opportunità di una selezione in Svizzera per trasferirsi nella Confederazione. Sei giovane e ti possiamo formare meglio. Questa è la semplice spiegazione fornita al momento della firma. In pochi anni Clizia cresce professionalmente, peccato però che ai curricula spediti in Italia le risposte ricevute siano state zero. Ci raggiunge ora in linea Michele Cimino, presidente di ADICO, Associazione Italiana Direttori Commerciali, Vendite e Marketing. Buon pomeriggio. Grazie. Michele Cimino, quando Clizia scrive dopo tre anni a Zurigo non posso che dire che guardare la situazione dell'Italia dall'estero fa ancora più male, lei come commenta? Bisogna pensare come è fatta l'Italia. L'Italia purtroppo è formata dal 95% di aziende piccole, delle famose PMI, e il 5% di multinazionali e di aziende grandi, per cui invece tantissimi talenti che vorrebbero tutti giustamente immediatamente trovare una collocazione. Quindi io penso che bisogna un po' essere non così crudeli verso questo paese, perché ha le sue difficoltà. Giovani come Crizia, che ha competenza, talento, ha colto gli aspetti più importanti della carriera di un marketer, cioè la digitalizzazione, la creatività e lavorare in team, possono trovare delle difficoltà. In un'epoca globale di globalizzazione, di valorizzazione del capitale umano e del talento, Clizia al passo, l'Italia e le sue imprese, ho l'impressione di no invece, cioè ci stiamo letteralmente facendo sfuggire i nostri migliori giovani. Certo, certo, questo purtroppo è quello che succede quando il tessuto industriale italiano non è in grado di assorbire queste risorse disponibili. Per cui quando Clizia dice che ha mandato 200 curriculum, certamente non è vero, succede a tutti i giovani, però certamente l'avrà mandato a 200 aziende diverse che non sono tutte multinazionali come quella che ha trovato a Zurigo. Quindi io non vorrei difendere le aziende italiane, però certamente il rapporto domanda-offerta giovani e posti di lavoro, e siamo un po' svantaggiati in questo anche momento. Stipendi, perché è notizia di questi giorni appunto che ci sono 500 euro di differenza, certo, tra un laureato che va a lavorare all'estero, in più ovviamente, certo, e un laureato che resta a lavorare in Italia. Anche questo conta alla fine, no? Certo. E quindi io penso che il messaggio finale di Clizia è molto importante per i giovani: conoscenza della lingua, esperienza all'estero tipo Erasmus e pazienza. Però si stancheranno di aspettare un paese che non li vuole. Ma ci spiega brevemente cos'è Adico? Dunque, Adico è un'associazione che riunisce le persone che si occupano di marketing, di vendite e commerciale. Quindi, in un certo senso, quella funzione che diventa sempre più importante per la vita delle aziende. Perché se un'azienda non vende, non fa ricavi e quindi non può assumere, non può esistere. Noi facciamo opera di informazione ai nostri colleghi direttori commerciali perché sappiano scegliere i talenti che gli servono nella vendita e nel marketing, facciamo informazione e facciamo anche formazione di corsi specialistici e networking. Clizia, hai una domanda per Michele Cimino? Come arrivare a rendere l'Italia un paese attrattivo di circolazione di talenti, magari cominciando proprio dal settore marketing? Per rendere un paese attrattivo ci sono due problemi. Uno, quello generale del paese, quindi è inutile che ne parliamo. L'altro è che a un certo punto le aziende capiscono che il cambiamento avviene attraverso l'introduzione di persone in azienda che abbiano talento, che sappiano le lingue, che abbiano creatività e soprattutto che sappiano lavorare in team. Questo è uno dei difetti principali che hanno le aziende italiane: lavorare in squadra, fare sistema. Per cui per renderlo attrattivo lo sforzo lo devono fare le aziende, perché la disponibilità di talenti o di risorse umane di alto profilo è notevole in Italia, tant'è vero che molti se ne trovano più facilmente lavoro all'estero che in Italia. Grazie a Michele Cimino, presidente di Adico, e domanda di rito per Clizia Capecchi: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando tra le varie vie di uscita? Un espatrio. Gli consiglierei prima di tutto di pensare bene a quello che vuole, sapendo che stare all'estero non è una passeggiata. Chiarite le idee sui progetti e le effettive capacità che può offrire, inizierei poi a formarmi su quali sono i paesi con più opportunità per muovere i primi passi. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo: una Communications Manager al Medicines Patent Pool di Ginevra in Svizzera, scadenza per il CV 31 ottobre, email a recruitment@medicinespatentpool.org. Un assistente legale allo European Molecular Biology Laboratory di Heidelberg in Germania, scadenza per il CV 10 novembre, info su embl.org/jobs. E infine vi ricordiamo che nella sezione Jobs del gruppo LinkedIn Fuga dei Talenti potete trovare offerte di ritorno a Milano, Modena, Bologna e Venezia, in particolare nei settori management e amministrativo. Siamo giunti ad Expats, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova emigrazione professionale. Oggi apriamo insieme la pagina web di un altro sito che racconta la crescente voglia di espatrio dei nostri giovani. Si chiama Via dall'Italia e propone informazioni utili e concrete su come lasciare la penisola per lavoro, volontariato o semplice voglia di viaggiare. Matteo Rubettino, cofondatore di Via dall'Italia. Nasce dalla voglia di condividere con tutti i giovani che sono nella stessa nostra situazione, con la voglia di scoprire altri mondi e in un momento in cui l'Italia non offre le situazioni ottimali per poter investire sul proprio futuro. Quindi la voglia di mostrare che si può non perdere tempo, stando dietro ai ritmi attuali dell'Italia, dell'esperienza all'estero. Se l'incertezza dell'Italia ti ferma, mettiti in viaggio. Questo è lo slogan del vostro sito. È il messaggio di prendersi dei rischi, quello che passa in un paese ormai molto conservatore, dove i rischi sono quasi un'eccezione, non una regola? Sì, sì, senza dubbio. Noi partiamo da un'esperienza fatta in Australia che ci ha mostrato che il merito viene premiato, fare si può con molta facilità e che soprattutto investire del tempo all'estero può regalare dei momenti di crescita. Trasferirsi, viaggiare, volontariato, queste le tre principali sezioni del sito. Partiamo da trasferirsi, raccontiamole brevemente. Cosa si trova all'interno di trasferirsi? Si trovano molte informazioni utili riguardo ad alcuni paesi del mondo che al momento offrono grandi opportunità di crescita. Viaggiare invece, quali sono le informazioni della sezione viaggiare? Da alcuni suggerimenti che da viaggiatori e da amanti del viaggio abbiamo messo su, ed è un po' un dove andare e quando. E poi c'è il volontariato. Perché avete scelto di inserire una sezione volontariato? Perché riteniamo molto utile al momento per tanti motivi, tra cui ovviamente la voglia di prodigare le proprie energie per aiutare alcune comunità in giro per il mondo che abbiano bisogno di gente per far crescere i propri progetti, e in più perché riteniamo che anche quella sia una grande occasione per crescere, per fare delle esperienze. Notate una voglia crescente soprattutto tra i giovani di espatrio dall'Italia? Notiamo quello, ma notiamo allo stesso tempo la voglia poi di tornare un giorno, di mettere in campo tutte le esperienze che sono state fatte per poter dare un contributo reale e quotidiano al nostro paese. Per maggiori informazioni potete cliccare su www.viadallitalia.com. Un motivo per restare o tornare. Per 3.000 giovani laureati del Sud potrebbe aprirsi a breve un'opportunità di lavoro con l'avvio di un tirocinio formativo. È il progetto NET di Italia Lavoro, che prevede uno stanziamento di 10 milioni di euro per stage rivolti a giovani che non studiano né lavorano, hanno tra i 25 e i 35 anni, sono laureati e residenti al Sud. I tirocini saranno retribuiti con una borsa di 500 euro mensili. Info su italialavoro.it. Per interagire con noi potete collegarvi online su Facebook nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina Fuga dei Talenti. Potrete rispondere alle discussioni del mese che rilanciamo anche sul gruppo La Fuga dei Talenti all'interno del portale professionale LinkedIn. Potete pure contribuire al blog aperto all'indirizzo radio24.sole24ore.com/blog/nava. È aperta l'iniziativa hashtag collegata a Fuga dei Talenti. La stringa del mese è espatriare ma dove? Dibattetele in 140 caratteri. Siamo allo spazio Internective. Ogni ultimo sabato del mese leggiamo le vostre lettere in onda. La discussione di ottobre è Europa, America o Asia? Quali sono le nuove mete di espatrio? Dove state orientando le vostre scelte di emigrazione? Per condividere idee, proposte e denunce nel nostro forum scriveteci a giovanitalenti@radio24.it. Vi ricordiamo infine che siamo sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare. Se siete under 40 ed espatriati potete candidarvi a giovanitalenti@radio24.it. Finisce qui questa puntata di Giovani Talenti, aspetto dunque i vostri contributi via email. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30 sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.